più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e che stenza dorme o muore, oppure fa l'amore. Ancora una, ancora una.